sulla marcia, andiamo ai vostri posti, o belle ai vostri posti. Susanna, dammi il braccio. Eccolo. Che bavari. Io son di ghiaccio. Contessa. Or non parliamo. Ecco qui le due nozze, qui ci vorremmo bion. Al fin si tratta d'una vostra protetta. Seggiamo. Seggiamo. E vedi chi han vedetta. Andate amici, e sia per questa sera disposto l'apparato nuziale con la più ricca pompa. Io vo che sia magnifica la festa, e canti, e fuochi, e gran cena, e gran ballo. E ognuno impari come io tratto color, che a me son cari. Sardicina, io sento gente ed essa non è alcun. Buia è la notte, ed io comincio mai a fare il scimonito mestiero di marito. La mia cerimonia e godiva leggendo, e nel vederlo io ridiva di me senza saperlo. Oh, Susanna, Susanna, quanta pena mi costi con quell'ingenua faccia, con quegli occhi innocenti. Chi creduto l'avria? Che il fidarsi a donna, a donna, io ne ho follia. Apriti un po' quegli occhi, uomini cauti e sciocchi, guardate queste femmine, guardate cosa son, guardate cosa son, guardate, guardate cosa son. queste chiamate die da ingannati sensi a qui riduta in censi la debole ragion la debole ragion la debole ragion se spreghe che incantano per facci penna si arrine che cantano per facci affoga civette che allettano per tracci le piume comete che aprillano per coglierci il lume son rose spinose son colpi pezzose son morse benigne colombe maligne maestre di canni da bighe da fanni che fingono mentono more non cento non cento pietà non cento pietà no no no no ognuno lo sa aprite un po' gli occhi uomini cauti e sciocchi guardate queste femmine guardate cosa son cosa son cosa son son strighe che incantano il resto moltiquo sirene che cantano il resto moltiquo civette che allettano il resto moltiquo comiche che aprillano il resto moltiquo son rose spinose son volpi pezzose son orse benigne colombe maligne maestri di canni da miche da fanni che fingono mentono more non cento non cento pietà non cento pietà no no no no il resto lo dico già ognuno lo sa il resto lo dico già ognuno lo sa già ognuno lo sa già ognuno lo sa già ognuno lo sa Yeah. adesso qualche brutto capita. Susa detto, non risponde, con la mano volto asconde. Oh la bulla in verità, oh la bulla in verità. Arbitella, saggiatella, il Cristo mi vedrà. Sorciosa, maliziosa, io presenti per te seguo. Arbitella, sorciosa, saggiatella, maliziosa, il Cristo mi vedrà. Sorciosa, maliziosa, io presenti per te seguo. Arbitella, sorciosa, te, comincio gente, vedrete la voi stessa, il conte e la mia sposa, di propria mano la cosa, compario vi farò, compario vi farò, compario vi farò. Parla con te del masso, parla del masso, parla del masso, parla del masso. Susanna, vendicarsi? Sì. Come, come potria farci? Sì. Ma poi per voi sottendermi, e se comandavo, perdono,